lanterna, ecco, quella che avevi prima, diversa. Ah, ma che madre ti hai preso? E io vabbè. C'è una buona antenna, già va bene. Se funziona bene, già va bene. E il cavo cosa gli hai messo? Le 10.48? Sì, le 10.48, nuovo, vecchio, sempre le 10.48, se mi va a vedere. Adesso ti potevi avere un cavo un po' più buono. Le G8, c'è una riga della G8, ma di più, 213. Sì, ma ce ne sono anche quelle superate, ma c'è l'H100, l'H155, l'H1000, capito? Migliori sono quelli adesso, il 213 è superato, è un cavo che va bene, però è superato. No, ah sì, vedete, stai uscendo bene, non c'è un problema. Sì, Santiago Nova, Radio 5 qua col Midland sto andando io, con 574, quindi lo Smith già va bene, quindi stai andando bene, non c'è problema. Tra le gassaie, che chi se la siamo andati tutta magna. Di solito io, Antonio, Bombolino, a volte Gianni, doppio room, ci tratteniamo un po' dopo cena, capito? Luca del Monte, ci tratteniamo un po' a fare due chiacchiere dopo cena, ma a quell'ora mi sembra che stiamo tutti cenando. E si conferma, va bene. No, è ce l'ho fatta ancora. Ancora non ce l'ho fatta, spero entro quest'anno di andarmene da qua. Ancora sono a Carbonazzi. E sono stati un po' di problemi per la casa, perché avevo degli agganci, invece poi non ho voluto più, quindi ho dovuto mollare i lavori, capito? Adesso sto vendendo, anche mercoledì c'è un altro appuntamento, un altro ne ho domani, però devo prima far fuori questo e poi finisco là e mi trasferisco, spero, ma sicuramente sì, entro quest'anno di andare. Vabbè dai, genio, che me ne vado un po' del salone, qua ho finito, ho pulito tutto, ho messo tutto in ordine, ho fatto alcune modifiche e spostamenti. Già ci sentiamo stasera se coincide, dai. Ciao, buona serata, buon tutto. Va bene anche Pasqualino, il produttore Resi glielo concedo sempre. È un ottimo ricordo che ho di mio padre. Se era vivo la buona, ma Giampaolo Silvestro, devo dire diretto. Lui non mi ha mai chiamato Claudio, mai e poi mai. Sempre Pasqualino, sempre. Io così ti conosco, poi me Claudio non esiste, mi diceva sempre, poverino, che com'è la vita crudele, che per carità. Manca sì, per la sua voglia di vivere, per l'entusiasmo che aveva e soprattutto per l'educazione che aveva, manca soprattutto per quello. Vabbè. Però ti ripeto, la vita è crudele, si accanisce sulle persone brave e buone, invece non si accanisce su quelle veramente che non servono a niente. Ciao Luigi, un abbraccio stasera. Cicù? 1, 2, 3, Cicù? Cicù in ascolto? C'è qualcuno in ascolto? Claudio, chi sei? Luca, Flipper, chi sei? Prova. Cicù in ascolto? Cicù canale 10, Cicù canale 10, Cicù, c'è qualcuno? Pronto? benissimo, sento una voce qua sul canale 10. Bene, ciao, buon pomeriggio. Sono Marco Scorpion, chi sei? No, non ti ho riconosciuto dalla voce. Sono in macchina, sto viaggiando e non ti ho sentito. Dicevo ciao, buon pomeriggio, sono Marco Scorpion, avanti. Ho capito, stazioni? Ok, Papazzango, addirittura arrivo già a Papazzango, sono al porto di Sassari, io sono in macchina e volevo provare questa radio a vedere un po' come è di modulazione. Mi senti bene? Sì, sì, sì, sì. E ho messo questo microfono e niente, ho provato a chiamare se c'era qualcuno qua in città, ma evidentemente sono tutti in relax, pennichella pomeridiana evidentemente. Va bene, chi sei? Com'è il tuo nome in attivo? KQSL, benissimo, Egidio. Molto bene, adesso ti sentivo anche un attimino meglio, sono alle porte di Sassari. C'è anche un po' di casino qua. Va bene, allora, approvato, microfono approvato, bene, dai, ti ringrazio delle indicazioni, Egidio. Adesso scendo qua a fare già un primo QRL. Ciao, grazie, a dopo, quando riparto, dopo che ho fatto il primo intervento, magari ti chiamo. Cicco canale 10. Avanti qua rosso. Eccomi. Sono Marco Scorpion, sono rientrato. Com'è? Papa Scorpion, io mi sono collegato adesso, ero solo in ascolto. Qua rosso barra mobile da Bricomen, direzione Chiaramonti. Capo, guarda, ero lì anche io, ma me ne sono andato, c'è una fila allucinante. Ma sei riuscito a fare gli acquiti tu? Non era possibile qua. C'era una fila ci sono state 30 persone che aspettavano per entrare. Negativo, io per comprare ho comprato, all'ingresso non c'era nessuno in fila. Poi alle casse due coglioni c'era qualcheduno. Evidentemente sei arrivato al momento giusto, perché adesso no, io sono arrivato e me ne sono andato. Non si può, c'è una fila, ripeto, ci sono 30 persone minimo, stanno aspettando. Allora me ne sono andato. Dimmi un po', mi senti bene in modulazione? Cappa, modulazione pressoché perfetta, voce cristallina, Sierra 920, niente, tutto perfetto. Sì, avanti, ok, perfetto, Rosso. Avanti, chi è che ha bussato con la buonasera? Sono in macchina, ti sento basso. Ti sento basso io, adesso mi sono un po' dentro nella zona industriale, un po' fra i palazzi. Rosso, riprendi tu che devo scendere, vado a fare un altro QRL. Blecco, chi ha bussato? Io ho sentito giusto controllo di tutta la frase. Qua Rosso, dalla 131, direzione Chiaramonti. Avanti, chiedo Arrugginito interrogativo. Chiodo, sei poco comprensibile, riesco a capire, ma giusto qualche parola. Sei molto disturbato, non so se il segnale che non è abbastanza o se hai problemi con l'apparato. Kappa, chiodo, magari più tardi, non lo so. Io ho 20 minuti e poi dovrei chiudere, giusto il tempo del viaggio. Dai, ci sentiamo, buona serata. Bobo! Ma dove? È bello, un Luca Flipper! Come qui? Bella giornata, ho fatto un bel diretto pomeriggio. E che si dice? Qui sta andando una batteria sotto. batteria di un rasoio elettrico che mi ha rinforzato e la sto piazzando. Fai, io ero di passaggio, stavo spazzando nei canali, tutti i vuoti, propagazione, vabbè, giustamente non ce n'è perché siamo a febbraio, ma manco in estate ce n'è, non abbastanza almeno, dai. Quello sì, 45, bisogna andare, 45, mettersi un barattino e gappa gappa. 45 metri magari. Roba da abusivi. E anche lì hanno fatto piazza pulita. Non c'è gusto, non si può fare più niente. Vabbè. E 5 sono. Claudio, ci sei? A sapere se aveva provato quella cosa lì ieri. Cosa? No, ho chiamato Claudio a vedere se c'era, per sapere se aveva provato quella cosa lì, quel B30 ZG che c'ha. Ah. Altro che B30, ciu, mamma di turchi. Mettitelo tu. No, è per fare cosa? No, per parlare in città no, ma per i DX l'antenna non regge prima di tutto. Questa antenna non... continui, ne puoi dare 200, 150 per precauzione, continui, la dico in AN, non di più. Poi si scioglie, c'è la bobina di antenna da macchina. Ah, boh. Sì, questa è fatta così, antenna leggera, l'ho presa perché era leggera. Vabbè, fa salda lui, io tanto qua sto facendo, sto andando e venendo. E sentiamo se capita. Ciao, buonasera. Ehi, ciao Marco, a più tardi. Io cercavo quello di batterie che hanno le lamelle, sai, quelle batterie lì sono, bisogna stare attenti a non piegarle. Ma ho già quasi finito Cosa? Dammi un controllo, aiuto. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai. Microfono sta andando male già, ti sento tutto a tratti. Cioè, l'ho premuto male, o metto l'altro, aspetta. Franco. Dimmi già. Adesso bene sta andando, guarda, forse era il microfono. Sì, adesso ti ascolto benissimo. E a me? Di lui sopra. Me ce la pette. Ero già piazzata, come sto scendo però con la, 68 col preamplificato, eh. Sta andando bene, dai. Segnale buono. Quanto ti dà stazionari? Nulla, nulla, stazionari e neanche si muovono. Quanto ti sta arrivando lì? Te l'ho detto, senti, a parte del figo di 30. Stata, sto scendo con 5 watt, con 68, aspetta quel magno a vedere. Sì, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3. E segnale buono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3. Ma bomba è questa antenna, va bene, prupe. Stazionale, e niente, va di russo. Questo qua invece c'ha un... Questa non è a nulla, neanche si muove l'ago. Pensa tu, ora. E ma io ho messo l'RG58. Perché ha giù brutto buono l'RG58? Non ha giù brutto di chi toccava, ha giù brutto visto, era già pronto, e però mi bastava. Vabbè, dai, comunque, vabbè, dai. 9 più 30, sì, qua, a fanno scala, dai, comunque già va bene, ti ascolto benissimo. Guida mia, Gebe. Niente, Rugariello, dammi un controllo, Gebe. Fanno scala, sì, frate, l'hai piazzato. Ho piazzato l'antenna, volevo sapere se sta facendo bene qua, Gebe. Sono positivo, dai, guida mia, gas. E a fondo scala, sì, qua. Oh, mamma mia, che vai di barca, che vai. Ma l'antenna è piazzata, c'è Luigi Cafuccio. Ah, giù piazzato l'antenna, giù piazzato. E ma l'antenna è su Luigi Cafuccio. Questa antenna è giocattolo. E perché stai gridando? Cioè, a te devo abbassare il volume, già ne posso levare il volume. Ok, c'è l'alternata sotto. Non alternata, c'è la ventola. Davvero vedi un alternata. Ha piazzato quell'antenna. Quell'antenna là ho piazzato, quella che avevo preso, che c'avevo qua, che l'avevo provata, l'ho piazzata poco fa, ho finito di piazzarla. Ma è leggera, 2,5 kg. Ehi, già lo so, già la conosco quell'antenna, già va bene. KK, non alternata fai, sono le ventole dell'alimentatore a 24 volts. Sta arrivando a 9 più 35 qua. E io sto andando con un baracchino piccolo. Niente, 6 watt o 5 watt. E io bene sto arrivando lì, là. Sì, sì, sul più del 30. E va bene, quindi, non pensavo che questa antenna andava bene, l'ho messa così a rischio, No, già va bene. Ottimo per la truppa. E io bene arrivo, buonasera. E che, buonasera. E sono uno del monte, parte alta, capito mi hai? Lui fra, ciao, buonasera, Marco. Ciao Marco Scurbia, buonasera, ben ascoltato. Quindi mi ascolti anche tu con questa antenna in gomma. Aspetta, ascolto, ci è uscito fuori dallo strumento. Stavo guardando se era caduto per terra qualche segmento. Vai, che stai arrivando alla grande, questa antenna di gomma. Qui c'è un'antenna che funziona bene alla grande. Torre, come mi senti? Com'è questa modulazione? Dimmi qualche cosa. Beh, come sempre. Ciao Marco, buonasera. Bene. Sto provando un altro microfono, non è il solito, sono in macchina, non sono a domo, sono in macchina. Già ho visto, c'è in macchina. Si vede la segnale, c'è in macchina, però già va bene la radio, non c'è problema. Ma è amplificata, molto amplificata, da combattimento oppure è quella radio così da mezza sega? No, la tua modulazione è sempre bella, forte, chiara, non c'è problema. Fantastico questo microfono. Aspetta aspetta che metto un altro microfono, vediamo che cosa succede. Riprendi, Fra. Qua c'è, dai, riprendo io. Qua il segnale è buono, 9.25 Marco, stai arrivando. Sì, Claudio, già va bene, stazionario comunque non ne ho. Neanche si muove l'ago dello smitter. Se non si muove l'ago dello smitter già va bene. Una tenna bidone, vabbè, dai. Ho voluto prendere quella, costa poco. Già va bene per questa zona, me la fa tenuta da gradi, quindi un bel di là. Ho cambiato microfono, questo come va? Meglio o peggio? No, è più bassa questa, è più metallica, l'altra è meglio. Questo è quello che usavo sempre, la modulazione è sempre dalla macchina. Il microfono che usavo in questi ultimi 20 anni. Sì, va bene, però chiaramente me ne ha fatto sentire uno che va meglio, è leggermente più alta, più corposa, si addice un po' di più alla tua voce. Questa è bella lo stesso, ma quella là è superiore. Milani, questa qui è, oh yeah, 1, 2, 3, 4, 5, prova, oh yeah. Questa è più grossa, più forte, più alta. È un amplificatore strano che avevo... che usavo su per le radio dello Shark, molto carino, con un microfono dedicato a condensatore. Va bene, che, ma da poter usare già il BTP nella, un po' tipo una scatola nera carina con LED rosso, è anche carina da vedersi, dai. No, già va bene, ottimo per la truppa, non c'è problema, qua sì, 9, sul più del 30, la 9.5 è perfetta. Ah, addirittura 9 più 30. E sono, già lo sai, ho il solito apparato qua in macchina, e l'antenna è quella che ho costruito io, con pezzi di un'antenna di radiale, di un'antenna della banda della 27 modificata, fatta e tarata ad hoc per poi usarla come antenna, perché questa qui era uno di quegli elementi della mia gran plena dei radiali, diciamo, dei radiali della massa, però. Va bene, e tu invece con che cosa stai giocando? Io sto usando un'antenna cinese, diciamo, un'antenna che costa 56 euro. E che ma da base? Sì, una Venox. Ah, Venom, ho capito. Venom è... L'ho vista, sembra che vada bene comunque, adesso non sono a distanza, ma sei qua dalle parti mie. Al monte sono io. Ma giù nella parte, verso la farmacia? No, vicino alla chiesa, più giù dalla chiesa. Ehi, capo, fondo scala incollato, arrivi qua, fondo scala a manetta, un'azione amplificata, la grande. Sì, vabbè, non pensavo che andava così questa antenna, ho dovuto mettere all'avventura a vedere se funzionava, se non funziona la butto giù. No, sembra che vada bene, adesso bisogna provare a distanza, vedere come funziona a distanza. Ma là, tu che ti ricordi queste cose, ma quella lì è quella che aveva comprato anche Marco di Alghero? Ma quell'antenna che ci ha fatto? Non l'ho mai vista quell'antenna, è un po' strano, c'è i radiali piegati. Perché mi pare che l'avesse comprata Marco Zotto mi pare l'avesse presa lui da usare per la 27, e se non ricordo male, l'avevo tra le antenne che stavo guardando, avevo visto anche quella, però poi ho preferito prendere la Sirio o la Spitfire, come cavolo si chiama, 827, una cosa del genere, con l'anello di rinforzo. No, non mi ricordo Marco, la verità, perché è un'antenna molto molto strana, che non ho... forse l'ho vista, non mi ricordo, non lo so, io a Marco di Alghero non mi ricordo di aver visto quell'antenna, proprio zero memoria. Ho capito, ma ti avevo chiamato io nel pomeriggio quando ho collegato questo affare, ma il telefono dice che è disattivato, non so, forse è cambiato numero. Ma il mio? E allora, con te sto parlando. L'ho chiamato al cellulare, al numero che ti ho sempre chiamato, e dice che il numero è disattivato, ma non ne ho altri numeri tuoi in memoria. Ma strano, molto strano. Io non ci ho nessuna chiamata, il numero è attivo, praticamente da domani c'è il cambio di compagnia, da un attimo sto passando la cola dopo 15 anni. Questo mi hanno scocciato con queste tariffe che ogni tanto aumentano e fanno, però il numero attivo è lo ma non ho nessuna chiamata, vediamo anche se... eccolo qua. Claudio, c'è l'alternata. Non è alternata, è la ventola dell'alimentatore a 24 volts. Sono alternata, vabbè. No, Rugarie, non è alternata, non è. È la ventola che purtroppo c'è l'alimentatore a 24 volts vicino a... radio, e quindi riceve questo, questa cosettina qua, ma no, non ce n'è altro, no, tranquillo. Grazie per avermelo letto comunque. Quando lo sento buttare gli occhi, ero. Allora, niente, no, quello là già, già ho visto, ho sentito che è già squillato. Vabbè, riprendi fra. Dai, io riprendo e chiudo, che sto finendo alcune cosette qua, mi sto sistemando dei fili, magari riprendo dopo. Ciao Claudio, ciao Marco Scorpio, mi ha fatto piacere averti ascoltato. E saluto anche gli amici che sono ascoltati. Riprendo dopo col break, che finisco di finire, di fissare questo filo. Dai, fai. Ciao Marco, ciao Piante, ciao Gianni, ciao Franco. Oh, vabbè, Claudio, pensavo fosse un'alternata, va bene. Beh, Marco Scorpio, mi ascolti, sì. Basso però, ti ascolto basso proprio, non so che cosa stai facendo. Io sono basso, sono 1,30 m. Almeno dici, sono 70 centimetri io. Fa una scala, sempre bene, lui amplificato alla grande, ottimo, ottima visione. Ma allora hai due numeri di telefono tu, Marco? Avevo un altro numero evidentemente, io stavo guidando e avevo messo qua il microfono, quest'altro microfono. Stavo guidando nella rubrica, ho cercato il tuo numero e ho chiamato. La classica voce registrata dice lì il cliente disattiva il numero di telefono. Vaffanculo, adesso faccio tutto bloccato. Il cliente, il numero è disattivato, eccetera, eccetera. Tu evidentemente avrà cambiato il numero. Allora ho preso e l'ho cancellato. Ma non ci ho pensato di riguardare se magari aveva un altro numero. Adesso quando me l'hai detto, ho ricercato nuovamente nella rubrica e evidentemente ne avevo un altro. Perché invece il numero c'è, il tuo, e ti ho fatto squillare, e l'hai sentito. Evidentemente era un numero vecchio che avevo, non so. Tu mi diceva che era disattivato, perciò forse chissà di grande quella storia, perché poi qua magari, siccome qua è stato resettato e ricaricato, forse mi ridava subito questo numero qua, invece adesso che dopo che è stato presentato il telefono eccetera, non c'è più la ricerca, il vecchio numero che chiamavo, capito? E allora mi ha dato solamente l'elenco di quelli che c'ero. E vabbè, comunque, tutto a posto, cancellato, viene la trasmissione. Vabbè, sentito che c'è anche Gianni, allora diamo appena Gianni, vediamo che Gianni era dormito, mi pare, perché ho chiamato anche a lui, volevo sapere come funzionava questo microfono, ma il caso è risolto. Gianni, doppio rosso, se ci sei, fatti un colpo, altrimenti l'antenna nuovamente a Claudio. Ehi, ciao Marco, no, stavo facendo roba, stavo ritirando la roba, dai. Stavo facendo roba e poi mi hanno chiamato dalla via, dal telefono, mi hanno partito per la segnale. Ok, adesso sono di nuovo qui, dai. Ok, benissimo già. Come ti sembra questa modulazione a te già? Buona, è buona. Bene, allora lasciamo questo qua di ritorno. Ok, va bene. Luca, cosa stai combinando? Mi merendando, Marco. Sono un po' stanco. Merendando, c'ho fame. E beh, ora sono le 6:15, è l'ora giusta. Adesso io sono arrivato già da un po', scendo, rientro a casa, mi faccio anche un caffè. In giro non c'è nessuno, poca gente, c'è un freddo cane, temperatura 5 gradi e 5 qua. Più in città era intorno a 6 gradi, 7 gradi, ma c'è freddo, c'è ancora freddo, e meno male che c'era il sole oggi, se no guai, se no sarebbe stato una ieri. Va bene, riprendi qua, io rientro a casa. Ciao a tutti, dai, buona serata. Marco Scorpiano, QRT, buona la merenda e buon caffè a tutti. Ciao ciao. Ciao Marco, grazie di essere entrato, buona serata, buon tutto, alle prossime. Scusa quello se devi comunicare con me, che l'altro non ce l'ho più, l'altro è aziendale. Avanti a chi tocca. Ciao Marco, ciao, buon corretti, dai, ci sentiamo, buona serata. Ciao Marco, salutoni anche a te, alla prossima, ciao ciao. Ciao, ciao ciao. Andiamo. miglio e tu allora no, ne fate più. Brecche! Mica, siamo alternata comunque. Più che. Come si dice? Più che il vento siamo alternata, avanti Breck. No, non è alternata di questa radio. È proprio il rumore che fa quell'alimentatore, capito? Però non lo posso allontanare molto. Ciao Marco, avanti. Leia, buonasera a tutti. Ciao Claudio. Ebbè, provate a la cosa. Ho visto il messaggio, ma diciamo ero molto di malumore ieri perché eravamo da parenti fuori città e quindi ieri era giornata nera. Funziona? Va bene B30? Sì. B30, guarda, c'era Massimiliano, c'era Antonio ieri. Ha chiamato Daniel e sono passato da Santiago 7 a Vistano 9 più 5, non so se ti basta. Esso Maria, sei un criminale di guerra, io. Poi se poi mi piacerebbe sentirlo, dai, vederlo, sentirlo. Riprendete, vado a mangiare. Luca, riprendi. Ma lo stacco, l'ho preso per sfizio, giusto per averlo, ma lo stacco perché ho un sacco di problemi, l'alimentatore a 24 volts. Vuole scatolato, capito, perché si sente, siccome c'è l'accoppiamento, e quindi quel rumore che senti non potrebbe essere anche il rumore alternato, ma non è di questa radio, assolutamente. Questo rumore che senti lontananza, se io metto il microfono normale non lo senti più, capito? Ah, io ho il volume al minimo, non lo sentirei comunque. Lui, chi altro c'è riprende, dai, vado a mangiare, ciao. Senti il rumore di alternata tu Marco, rumore di sottofondo, qualcosa? Allora, sì, adesso che ho alzato il volume appena si sente, però non è ventola, sembra proprio alternata. Che dire, fammelo sentire. Sì, ma non è di questa radio, perché lo so che non è di questa radio, è quel cacchio di alimentatore, adesso lo stacco. Adesso lo stacco, lo so, ma lo sento anche in cuffia leggero, ma non è di questa radio. Se fosse di questa radio sarebbe molto più forte, capito? È questo rumore che si sente di questo cacchio di alimentatore. Vabbè, non solo lo metto, ma cacchio lo metto. Vabbè, caduto sì. Ehi, sono in cucina, riprendete, ho detto, fate girare, c'era Luca, Gianni, chi altro c'era? Marco, California, chi era prima? Ah, boh, non so chi c'era, non so. Sì, che era acceso qua, Allora, California arrivava con antenna nuova, 9.15 con 4 watt, quindi presumo l'Alan 68, cosa ha detto? Ormai un 9.20, quindi 9.15 con 4 watt. Sembra adeguato il segnale, più o meno, dai. Luca è un po' più forte, diciamo, stessa zona ma è più forte Luca. Luca è 9.20 pieno, tendente a 9.25. Marco, quanto ti ha? Aspetta, dai che c'ho la roba sul fuoco, un attimino, a dopo. Ah, io entro dopo, ti faccio sentire il drone, ti faccio sentire l'elicottero che ho commutato sul Galaxy. Con questo lo senti lo stesso il rumore di alternata, Luca? Guarda a vedere. Luca? Tu il rumore di alternata senti Gianni? Sì, sotto un po'. Quindi, cioè, anche il Galaxy adesso fa rumore di alternata. Adesso l'ho portato presso, lo devo staccare. Sono costretto a staccarlo, questo alimentatore a 24, sino a quando non lo chiudo nel case, sino a quando non le faccio praticamente la scatola. Se no mi crea problemi di alternata, ma dimmi due, anche quello dell'accoppiamento, le vibrazioni. Purtroppo sono uno sopra l'altro, fascettati, come fai? Ma tu adesso il carro si stai usando? Adesso sì. E l'alimentatore perché cosa ti serve? Alimentare un amplificatore grande a 24 volts, cosa mi serve? Ah, quindi tu stai usando il lineare adesso? No, è l'alimentatore che è sempre acceso, sei collegato alla corrente, il lineare è spento, se ti attacco il lineare senti un casino che non viene bene a dirlo di ventole. Vuoi che te lo attacco? Guarda, ti segnala. Ecco, così c'è il lineare attaccato, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, le senti le ventole? Le senti le ventole, tutte e tre accese? Marco, sapere com'è. Purtroppo c'è l'elicottero che si mette in funzione, perché quando schiacci la portata partono le ventole in automatico, ho capito, e quindi è così. Sì, infatti è più forte del solito. Allora, tu da liscio dovresti essere circa 5, liscio tipo 4, 5 watt, 8 watt, non so quanto esattamente, e adesso sei a 8 pieno, 8 è come dico io un quarto, tra 8 e 8 e mezzo, fate il conto. Se da 7, sentiamo 7, arrivo con, no, questo c'ha 8 watt d'ingresso, le sto dando 12 modulati. È praticamente da Santiago 7 che arriva ad Oristano, a Daniel sono passato da 7 a 9 più 5. Eia. Aspetta, se ricordo bene, una volta avevi provato un apparecchio 4 watt, proprio 4 watt, uno di quei vintage stai provando, ed eri Santiago 4. Quindi se, adesso prendila per buona, sto smitter non è professionale, se con 4 watt sei 4, 5, 6, 7, 8, 8 pieno, figurati, 4 Santiago in più. E quello è bello per il 45, per quando viene la propagazione ci si diverte molto con quello. In SSB anche. Ehi, SSB si solleva dritto e salta dalla finestra e non ha giocato. Adesso devo risolvere il problema del 24 voci, perché gli alimentatori sono così appoggiati sopra l'altro, però si sente questo rumore in lontananza col microfono da tavolo, col microfono normale no, capito? Maria, poi sai cos'è? Tutte quelle ventole fanno rumore anche, Claudio. C'è una, vabbè, due, aumenta, tre, aumenta ancora, capito? Senti questo soffio di fondo. Comunque, rende. Naturalmente, se io tolgo l'attenuatore, questo smitter più di 9,30 non va. Solo se uno viene sotto casa arriva a 9,35. Ma nessuno arriva a più di 9 più 30 qua. Se io attacco invece l'8000, il 7009 mi pare, quello col fondo scala 960, e lì arriva già 940, forse guadagni qualcosa, non lo so, a meno che non sia il massimo anche quello. Non ho mai visto oltre il 940 lo Smith, e dopo se al limite si prova, vediamo. Sempre baracchini sono, smitter di baracchini volgari, quindi c'è nulla a fare. Dai, vi devo lasciare, Gianni riprendi. Ehi, io ti ho chiesto come ti stavi fatto di segnare. Detto che ho cambiato rispetto. Ma adesso sei liscio già, 9,20. Sono liscio, sì, sono liscio. Sì, 9,20. 9,20. 9,20. Prima quando ti arrivavo. Già, io credo sempre a quel segnale lì. Quanti watt c'hai? 4. Andava bene. Sempre 9,20 arrivi liscio, Gianni, con attacchi 9 più 30. E quindi questa Venom sembra funzionare. Lui è più basso della chiesa, no? Quindi non so se siamo alla stessa altezza. Secondo me è più in alto, sì, molto più in alto. E fare le prove in distanza, Alghero, Pro Torres, se ci fossero più stazioni sarebbe meglio, è che l'Anguela 27, cioè, vabbè. Sì, vabbè, già ci sarà il tempo di farlo. Per il momento va bene, dai, per quello della pagata, andate. Ma tu noti questa leggera saturazione di Gianni Marco? Aspetta, qua è tutto tolto, NB e NL, prova Gianni. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oddio, mi sembrerebbe di no, d'altronde è liscio, perché dovrebbe saturare? A meno che Gianni non abbia tirato i watt dell'apparecchio già. Se è sotto i 7 va bene. Se è più di 7 comincia a mangiarsi la radio, se è il 3009. Non ho tirato niente, sto parlando col gas, c'è con me qui io. È normale come prima, non ho toccato nulla. C'hai la potenza al massimo del gas? Sì. Ma abbassala appena appena, metti il RF power, non al massimo, sollevano appena appena i due tacchi. Guarda adesso. Allora, la matematica non è un'opinione, anch'io non lo tengo al massimo, Gianni, lo tengo due tacchi sopra il massimo, perché altrimenti anche a me mi fa lo stesso gioco. Non mi hanno mai detto nulla, cazzo, al massimo, adesso sta andando male. Non sta andando male, così lo fa anche il mio, cioè. Non ti hanno detto niente, perché vuol dire non ti hanno voluto dire niente. Io queste cose ci sto attento, come ci stai attento tu, l'ho notata, non è che non la noto. Era leggermente, ma un pelino, compressa, è molto, molto più chiara. C'è anche il microfono che è al massimo, guarda, adesso il microfono è al massimo, prima non mi sentivi, mi ha detto che l'ho basso in radio. Adesso va ancora meglio. Cappaga. Vabbè, chi tocca è Michelino? Ma è salito il segnale in quel Galaxy, visto che stai usando il Galaxy, quanto sono io? Sul 30, sul più, dove sono così? Vedo mettere gli occhiali qua. Non ci vedo. Così c'è più basso, Claudio. Qui sono con 8 watt, no? Regolato 8 watt questo, se no con i picchi di modulazione posso rovinare l'amplificatore, capito? Sì, 5, ho controllato, attenuato Santiago 5, tondi tondi. Quindi 6, 7, 8, 3 Santiago, non dico e mezzo, ma quasi, quasi. Già funge. Prova! Guarda già, così sono liscio, stai attento alla... devo mollare, non posso agganciare, devo mollare il PTT. Senti un bel di ventole, ma comunque normale per quegli amplificatori. Guarda a vedere, stacco. Allora, qui sei 9.30, sul più. Adesso guarda a vedere se è salito il segnale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E adesso è più avanti del più del 9.30, quasi sul DB. Già va. Ieri è entrato Daniele Dall'Estano, stavo uscendo al massimo, il mio segnale lì è tra il 6 e il 7, così liscio, con 8 watt e 10 watt. Sono passato tra il 6 e il 7 a 9 più 5. Ehi, e torna tutto attorno a me. Se liscio 6 e 7, 8, 9, 9, 5, sai che sia 6, no? 8 watt. 7, 8, 9, 9, 5, sì. È una bella bestia quella lì. È una bestia, la bulla busciacca, vabbè. Un po' di pazzia sto facendo, devo dare una calmata, aspetta lo stacco, dai. Va bene, io devo staccare, riprendete, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo, dai. Avanti, chi è rimasto in rotta? Non so chi c'è. Comunque, l'uomo alternata l'ho spostato, adesso non se ne sente più, sono in cuffia, non sento più niente. Prova. Guarda, a vedere. Senti ancora? No, mi sembra di no, cara. Tienilo premuto e lascialo un po' senza parlare. No, adesso non c'è. Si sente solo il QRA e basta. Sì, vabbè, ce l'ho sempre la porta aperta. Ho cercato di allontanarlo, però più di quello non posso fare perché c'è un piano sotto vicino alla finestra dove sono gli alimentatori. E tra l'altro quell'alimentatore lì è praticamente è tutto scoperto, adesso vuole assemblato, c'è tutto il kit di assemblamento, bananine, interruttore eccetera. Dobbiamo farlo con Massimiliano e Gigi, ma in questo momento non c'ho né tempo io né tempo loro, quindi. Per provare l'amplificatore ho dovuto provare così, però è chiaro che si sente che ronca, vuole chiuso, perché sono uno sopra l'altro, fascettato, ho capito male le vibrazioni. Vabbè dai, già lo chiuderemo insomma, l'importante è che non siano altri problemi, se si sente è solo un problema di alimentatore in vicinanza ai microfoni, perché con quello normale non si sente. Le radio già sono tutti a posto, dai, già va bene. Adesso diciamo senza la scatola, senza il coperchio, diciamo, è in grezzo. Chissà, è Rugani di Lucca. Sì, per quello già, ma per provare quell'amplificatore, per vedere se andava, sono stato costretto a usare quello. Adesso va messo nel suo case, con l'interruttore, bananine, tutte cose, quindi e quindi poi non si sentirà niente, dai. Come quello che c'ha Massimiliano, se l'ha fatto lui, infatti me lo deve fare lui. Avanti lui. Ma qua sto mangiando. Ciao, sono Antonio Nannini. Senti, sì. Campa di Rogero, Campa di Rosmetro. Se vuoi un freddo, volo allucinante. Che sti... freddo di neve. E dopo sarà parte tua, dovrebbe essere ancora più fredda che sei più nato. Oh, yeah. Sei più vicino alla parte di Usilo. Se ti sto dicendo io a volte la sera apro la finestra. Ma, è tutto serrato, me lo voglio vedere abbasciato. Se un freddo, madonna santa. Mattina sono uscita alle 8 col cane, c'era l'erba ghiacciata. Ecco. Avanti Massimiliano, buonasera. Ciao Gianni, ciao Claudio, poi non so chi c'è altro, ma c'è già adesso. Cappa, ciao Massimiliano, ben sentito, dai. Allora, controllo di segnale Massimiliano. Vai, prova. Guarda, vede, 1, 2, 3, prova. Sei peggio o meglio di prima, che vi ho cambiato gli spezzoni. 9.15 Piero Piero. Prima quando ero? Quanto ero? Boh, non lo ricordo già, forse non ci arrivavi a 15 però. Cappa, che l'ispezione stava dando problemi, cazzo. Adesso li ho rifatti tutti, comunque quei PL non servono a nulla, ne ho provato 1000, solo quelli della GBC vanno bene, anche se sono di quelli bianchi vanno meglio di quelli di almeno a vita. Ah, ecco, ma io stavo dicendo una cosa già. Se ci autoportiamo, cioè mettiamo 5-10 ore a testa, ne prendiamo un po' e ce li dividiamo, ce li ordiniamo da fuori, no? Claudio c'ha un amico e dove li prende lui, e ce ne prendiamo 5-6 a testa, quelli che escono, dai. Capito, ci dividiamo tutte le spese e quando arrivano ce le dividiamo. Beh, si può fare sì, io sono d'accordo, non c'è problema. Sempre che siano di quelli buoni, che non siano anche quelli di quelli che non avvitano. Riprendi. Io me li ha mandati a me l'anno scorso, prima di Natale. Ne ho utilizzato 3, eppure avvitano le radio, avvita il Galaxy, avvita da tutte le parti, avvita sul amplificatore. Non so più che PL sto vendendo. Io questo problema non l'ho mai avuto, non so cosa dire. Claudio, non so se siamo nel problema del 3009, però tutti gli apparecchi avvitano, su 3009 no. Però se io uso i PL, quelli tipo vecchio, di spezzoni vecchi che avevo, l'ho smontati e ho usato quelli lì, avvita tranquillamente in tutti gli apparecchi, anche nel 3009. È una cosa assurda, ma è così. L'abbiamo provato in mille maniere. Franco dice, no, non è possibile, cazzo non è possibile. Dopo ci ha visto un buruetto. Sì, ti capisco già, per carità, non è sto dicendo che sei bugiardo, ma è una cosa che in 40, più di 40 anni di radio io non ho mai constatato, non so, da che mondo è mondo il PL 259 è quello, quindi non riesco a capire come mai abbiamo fatto un connettore diverso su una radio di ultima generazione, cioè non riesco a capire, non so, io quelli che mi hanno mandato sia sulla radio vintage, sia sugli HF, li ho sempre usati, sono andato anche l'ultima radio che avevo comprato, che era nuova, avvitava lo stesso, comprati, mandati così, poi se Fusaro c'ha questi tipi di PL, non lo so, voglio rendermi conto, magari vado me ne prendo 2, non mi servono, ma mi prendo lo stesso e li provo a vedere, perché è una cosa assurda questo che stai dicendo, è allucinante, no? Assurdo, è allucinante. Vai Massimiliano. Ascolta Gian, non vorrei invece che quel 3009 sia di importazione e hanno cambiato il passo del PL. Boh, una mia supposizione, attenzione. No, perché con i vecchi avvita tranquillamente, senza forzare, senza nulla, lo avviti in scioltezza, invece gli altri giri, non prende la fretta più. Che cosa strano, ma proprio strano veramente. Strano sì, è strano sì. E poi lo faceva anche con l'altro che ho venduto di 3009, quello che ci avevo prima, che mi aveva venduto Eugenio. Colui l'ho venduto e me l'ho preso nuovo, per averlo proprio nuovo, no, ho aggiunto 20 euro e me lo sono preso nuovo. E fatto sta che lo faceva sia in uno che nell'altro. Ah, quindi diciamo i PL quelli vecchi avvitano bene. Questi nuovi non avvitano, ma secondo me il problema è proprio il PL allora. Non è tanto la radio, ma il PL. Sì, perché è vecchio, avvita in scioltezza, Massimiliano. E lui giri così senza fare forza, tranquillamente. Quindi stai sempre girando, ma fine che spari la filettatura poi dell'apparecchio non serve più. Quello è il problema, che magari ti rovina anche la filettatura della radio, capito? Ha due rugaggiati di BL. Ma infatti. Dopo a fare la filettatura è un casino. Questo io non capisco, cioè come facciano ad aver fatto una cosa del genere, boh, non lo so. È veramente molto molto strano, capito? È molto strano, perché i PL sono PL, cioè è una vita che usiamo questi PL, o di una maniera o nell'altra, una marca diversa dall'altra, ma il collegamento, l'attacco è sempre quello, la flettatura è sempre quella, boh, hanno sbagliato il passo a quella radio, non lo so, già, può essere successo di tutto. Oppure come hai detto tu, hanno messo un connettore diverso, non lo so. Massimiliano, ho toccato il microfono, la modulazione è sempre uguale, va bene? Sì, va bene, ma forte. Allora però appena lo metto, che ce l'avevo a un puntino e mezzo, l'ho rimesso a un puntino, dai, già va bene. Capito già, boh, non lo so, credimi, io non ho mai sentito uno di questi problemi. Allora Franco, ne ho dato uno di quelli lì, l'ha messo nell'antenna nuova e non abita manco lì. Seria, aspetta, cambio radio Massimiliano, perché qua è un po' più distante il Galaxy e non si sente il rumore alternato a quell'alimentatore, mi corre il microfono a tavolo, mi porta dentro l'alternata dell'alimentatore. Ho la ventola che è molto rumorosa internamente, però io la sento. Aspetta a vedere che cambio radio, mi ci se la senti anche tu quel rumore, sembra un rumore di alternata. Vai, io siamo qua, non c'è problema. E che antenna si è preso, Franco, già? No, però si è preso. Però no, gliel'ho data un pezzaccio, chi la doveva piazzare non l'ha piazzata, l'ha comprata e poi non ha messo più, e ha venduto tutto, capo, antenna, tutto qua. Vanno bene quelle antenne, vanno molto bene, una 50, leggerissima, c'ha dei radialini fatti a tipo S, piccoli piccoli, ce l'hanno 25-30 centimetri, è carina, va. I radiali sono ben grossi, che si rigurassino le fasce, sono ben grossi. Ma sono anche piccoli, capito, già. Ascolta Massimiliano, guarda se senti, perché mio marito si porta dentro questo rumore, non è la radio, perché assolutamente, però si porta dentro questo rumore, perché è molto in fondo questa radio, si porta dentro il rumore delle alimentatori, guarda a vedere. No, questo non è il rumore dell'alimentatore, però qua, questo è l'alternata. Prova a mettere la mano sul dove il pilota della radio, del microfono della radio. Prova a mettere la mano sopra, dov'è? No, io sento un rumore anche in lontananza, un qualcosa che ronza, ma non è la radio, no, non è la radio Massimiliano. Lì dalla parte degli alimentatori, non lo so. Questa è radio 220? No, questo è il video del 574 a 12 volts, quindi no, non può ronzare. È un rumore che io sento dalla parte lì degli alimentatori, devo staccare da quell'alimentatore a 24 volts a vedere se è da lì che arriva. Io sento un rumore che arriva da lì, ma più che rumore sembra qualcosa che sta girando, quindi è qualche è la ventola sicuramente. No, non è ventola, questa alternata non è ventola. Devi provare a cambiare il cavo da un alimentatore a un altro alimentatore per vedere se lo trovo ancora. Però questa è alternata, eh? Ma non è dalla radio, non è dalla radio, è a 12 volte questo, non può fare ronzini. È qualcosa che si sta portando dentro, perché se usa il microfono normale non lo senti, capito? arriva da lì, dall'angolo arriva, cazzo, arriva questo rumorino, io sento questo, arriva da lì, dall'angolo. Guarda qua, per farti capire, questo rumore che è giù sotto, se io attacco il mio S9 all'alimentatore switching, mi porta dietro questo rumore qua che è un'alternata. Infatti io l'S9 ce l'ho attaccato a un alimentatore stabilizzato. Come ho cambiato dal switching allo stabilizzato, boom, sparito il rumore. Io ho capito. Aspetta, adesso io stacco. Scusa qua, voglio fare la prova. Stacco l'alimentatore, quello 24 volts, perché io non ho mai avuto rumore d'alternato. Lo sento anche io, ma non è la radio, Non sono il radio. E tira lì la brisa e lo vedi subito. Avanti già. Può essere anche ciabatte, tutte queste cose qua che danno problemi. Io sono diventato automatico l'altro giorno, cazzo, spostando, facendo, cambiando, via, fa caridare. E non va a rendermi, basta, ho detto, non posso stare sempre, cazzo, con un problema di baracchini. Ma poi mi è arrivata apposta, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro. E alla fine che io sono così, quando mi rompo le capi, figlio mi vendo tutto e abbia il culo. Ma no, adesso sta andando bene, ho visto che sta andando bene, che ho cambiato gli spezzoni, gli ho messo quelle di corso. L'H155. Sì, va bene. E anche io nell'antenna. In questa antenna dove sto modulando adesso c'è l'H155, è lo spezzone che va dal commutatore alla radio, è sempre H155. Già va bene quel cavo, l'ho letto e dice che dà, che è molto performante come cavo, ha un po' capire. Ho messo? Avanti. Eccoci, Marco Scorcio, ciao. Ragazzi, un'altra radio adesso, sempre giocando, no? non le mordete, se ci senti il connettore che va a farsi benedire, se si dice, se le parte. Come funziona questa, come funziona questa radio? Ti sentite bene oppure no? Radio bassa e innesco. No, vedi? Aspetta, perché qua c'è sempre il suo studio, un attimo. Ma già, questa è come quella che ci avevi tu l'altro giorno, nel canale 10 ne scava e negli altri no. No, è sempre qui, mi dimentico che devo fare questo passaggio qua. Sicuramente adesso va meglio. No, Marco, l'altro giorno io stavo innescando nel canale 10 e negli altri canali non innescavo e non capivo perché. Siccome ho una radio che è nascosta sotto e me l'avevo dimenticata accesa sul canale 10, quindi come andavo a parlare innescavo, poi andavo sull'altro canale e non innescavo e nessuno capiva che cosa poteva essere. Vedi, questi sono i misteri dell'etere. No, qua mi dimentico che ogni volta che devo venire qui a M, devo assolutamente fare questo passaggio. Alle volte me ne dimentico e niente. E parto male. Sono sicuro che adesso, questa è la classica modulazione che uso sempre, dai, penso che funzioni bene, che la qualità sia buona, il segnale non lo so, ma generalmente l'antenna è la Sirio, la Spitfire mi pare si chiami, se non ricordo male. Stazionare non ne ha, perfetta, vedo che è sempre 1-1. Veramente, bravo il tecnico che l'ha installata, bravo, va bene. Cappagatta. E vabbè, anche io ho quello di stazionare 1-1. Io ne ho 0 completamente, qua l'ago non si muove. Anch'io sto usando una Sirio 2016, quella autoradiale, quella che c'ha tipo il boccione come carica. Sto usando quella lì, 0 stazionale, ma anche sulla manta vanno niente.